magari sono forti a fare dal giornalismo anche una cosa, diciamo, di basso livello. Mm-hmm. Io ho detto che ci sono certi giornali in Inghilterra che servono solo a pulire i vetri della macchina, quindi... Noi giocavamo con un assetto di 4-1, come voi sapete, 4-1... Come Marchionne mette un pullover, il Magnone pullover. No, io mette i bermuda, insomma. Sì, sì. Tutti convocati di Carlo Genta. Welche Münchner Fußballmannschaft kennt man auf der ganzen Welt? Wie heißt dieser Club, der hierzulande die Rekorde hält? Oder an deren Zeichermann? Ragazzi, io li caccio via, questi li caccio via, mi fa morire da ridere. Franco Piantarita, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia, mi fa morire da ridere sentire questa mescolanza di catalano e tedesco, ma è quanto mai opportuno, perché Godot spunta a Marienplatz. Qualcuno sarà rimasto sorpreso, noi mica tanto, perché è la scelta per un uomo razionale come Pep Guardiola, più razionale che ci sia, ma che sceicchi, ma che... Milan con le pezze a sedere era una falsa pista, questo si era già capito, mentre il Milan sta trattando ufficialmente, vedo ora le notizie, il prestito di Kakà dal Real Madrid. Ieri Kakà era a Milano, poi lo sentiremo anche a trovare Robinho, a mangiare, a supplicare probabilmente un ritorno. Ebbene, la notizia del giorno, su cui voglio ovviamente sentire la vostra parola, 800240024, perché siete sempre convocati, è quella del trapianto del verbo catalano in Germania. Saluto e ringrazio Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna, nostro amico della Gazzetta dello Sport. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Ai pochi ascoltatori che sono rimasti dopo questa invasione di onde sonore assolutamente negativa. Assolutamente negativa. I pochi che resistono, veramente. I pochi che restano. Riccardo Gentile da Sky, profondo conoscitore del calcio tedesco. Ciao Riccardo. Pronto? Riccardo Gentile tornerà, ma tra poco. Allora comincio con Filippo. Beh, insomma, Filippo, la scelta più razionale che ci poteva essere. Ma sì, scelta comoda. Cioè, anche, allora, dai. O vai dagli arabi, o vai da Abramovic. Dall'oligarca che ha preso l'abitudine di giocare con la pelle dei suoi allenatori, o Ondoval. O vai dall'oligarca di Arcore anche. Ma quale oligarca di Arcore? Che non c'è più, non c'è più una lira. Non c'è una lira. Sì, che dobbiamo fare qua? No, è scelta... la scelta migliore è un club calcistico, i dirigenti tutti ex giocatori, tra l'altro anche di un certo livello, dedicato al calcio, stadio sempre pieno, campionato che io non guardo ma che ha una percentuale di riempimento degli stadi enorme, mi dicono piacevole, una buona cantera col K, perché adesso dobbiamo, sì, dobbiamo scriverla col K, no? Un bel vivaio, radici forti, sì, due finali di Champions negli ultimi tre anni, tanti, insomma, soldi, tanti soldi, tanti soldi, tanti da soldi. Quello che so io hanno in cassa 278 milioni, c'è da pagare la clausola di Messi, avanzano anche 28 sì, milioni. Tanti soldi e tanta frustrazione, mentre bellissimi messaggi, è diventato un programma di buffoni, che Rocco, ho sbagliato trasmissione. Oppure, ma non ti sembra di aver rotto a sufficienza le palle con queste musichette, mi scrive Nicola. No, penso di romperle ancora di più le palle con queste musichette. Però c'è anche chi gradisce l'inno del Bayern. Riccardo Gentile, eccolo qui, già presentato. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come lo vedi? Come lo vedi l'ombre in Marienplatz? È affascinante, veramente molto affascinante, perché non lo so, rappresenta un riscatto di un campionato che è stato, secondo me, farò di parte, lo dico subito così almeno no, però è stato un pochino sottovalutato. In realtà non ci si è accorti che stavano lavorando bene, stavano lavorando nel modo giusto per poi poter cominciare a raccogliere risultati. Io credo che i risultati li abbiano comunque già raccolti, perché poi arrivare in finale, è vero, perderla lascia un sapore amaro, però arrivare in finale due volte su tre negli ultimi tre anni sembra una cosa da poco. Sì. È chiaro che qui ci vuole il salto di qualità, con Guardiola ci vuole il salto di qualità. Sì, con Guardiola ci vuole il salto di qualità, era l'unico posto onestamente dove per molti motivi, ragionando freddamente, Guardiola poteva approdare, no? Per programmi, quattrini, frustrazione, potenza economica, il fatto che Mourinho non abbia ancora piantato lì la sua bandierina, ne abbia mai detto di volerlo fare. Sì, beh, effettivamente sono tutti fattori che ci portano a pensare alla scelta di Guardiola, come una scelta adesso non dico banale ma prevedibile, però io credo che vada comunque apprezzato il coraggio, l'originalità, perché innanzitutto non conosco tanti allenatori capaci di rinunciare a 4 milioni di euro, perché era questa la differenza che c'era sull'offerta del Chelsea. Sì. Lui ha deciso di accettare quella del Bayern a 8 e rifiutare quella del Chelsea a 12. E poi comunque l'intelligenza di capire che è un movimento in crescita. Io credo che la crescita del campionato inglese si sia fermata e adesso la parabola sia abbastanza discendente. Vediamo meno campioni in Inghilterra di 2 o 3 anni fa. Per non parlare della Spagna. Sì, Germania campionato in crescita con impianti sempre pieni e appunto movimento che sembra fatto apposta per coronare il progetto di Guardiola. Un argomento è interessante, lo svilupperemo subito dopo il traffico con Riccardo Gentile e Filippo Maria Ricci. Cioè, Guardiola non va a ricostruire una squadra, non va a ricominciare da zero. A me piace il fatto che Guardiola si rimetta subito in gioco, in sella ad un club che gli chiede di vincere e di vincere immediatamente. Quindi in questo modo si gioca un po', ed è bello questo, faccia credibilità. Strade. Io mi sento lusingato se la società cerca Guardiola. Vuol dire che sono uno dei più bravi, se non il più bravo. Tutti convocati. Allora, Filippo Maria Ricci e Riccardo Gentile. Filippo Maria Ricci, Guardiola che si gioca subito la faccia. Sì, lo fa, un campionato diciamo alla sua portata, ovviamente, perché adesso hanno perso le ultime due edizioni da col Borussia Dortmund, però dovrebbero vincere questa e tradizionalmente sono, no, sempre favoriti, però una cultura diversa, una maniera diversa. Io dico una cosa, a me la cosa che più mi ha colpito della giornata di ieri è l'immediato messaggio del Borussia Dortmund di felicitazioni al Bayern. Qua parliamo, no, siamo abituati, ci si riempie la bocca col fair play, così, no, quello era un messaggio genuino, sincero, ed è molto bello. Voglio vedere se, no, qua una grande squadra italiana prende un grande allenatore e l'avversario gli dice grandissimo, siamo felici, no? Cioè, a me questo rende molto l'idea di quello che è il calcio tedesco, di come si vive il calcio lì, di come è la Bundesliga. E a me questo è piaciuto molto. Il resto, sì, grande sfida e sì, poi vediamo, insomma, ecco, in attesa del primo Bayern-Barcellona della prossima stagione. Esatto. Riccardo Gentile, che ne pensi? Beh, Filippo ha ragione, io credo che sia stato un gesto elegante quello del Borussia Dortmund, proprio a significare quanto tutto il movimento Bundesliga possa ovviamente essere avvantaggiato dall'arrivo di un personaggio così importante, così vincente, anche così positivo, perché poi dobbiamo guardare anche cos'è Guardiola fuori dal campo, secondo me, insomma, no? E questo non può che far bene, è un campionato che le stelle ce le ha, però insomma, non essendosi consacrate precedentemente altrove, evidentemente non avevano il giusto riconoscimento, siccome Guardiola altrove si è consacrato e come. Il fatto che lui abbia scelto la Germania, io credo che possa essere un inizio e la possibilità che tanti altri come lui, non solo gli allenatori, possano prenderlo ad esempio. Perché se un ragazzo così intelligente sceglie quella via, evidentemente ci sono dei buoni motivi. Sì, il fatto è che comunque va ad allenare non lo splendido Borussia Dortmund, non lo Schalke 04, ma uno dei pochissimi top club a livello europeo, perché se riconti ci sono quelli degli sceicchi, e ne abbiamo parlato prima, che non gli offrivano sufficiente credibilità. Abramovic, ma poi quella è la casa di Mourinho, quindi non ce lo vedo ad andare a mettersi l'accappatoio di Mourinho. Non ne restano moltissimi, Riccardo. È vero, però è anche giusto che un bravo allenatore venga chiamato e si riproponga su una panchina all'altezza della sua carriera, insomma, di quello che ha fatto. È chiaro che sarebbe stata una sfida assolutamente rischiosa accettare magari la corte dello Schalke 04, che tra l'altro la corte non ha fatto a Guardiola. Cioè, mi sembra giusto così, insomma, se uno lavora bene da una parte, se un giornalista è molto bravo e lavora in una grande televisione, ovviamente cercherà di scegliersene un'altra all'estero che sia di pari livello e non andrà a una TV locale del suo paese. Normale che sia così. Grazie Riccardo, buon lavoro. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie a Riccardo Gentile di Sky, mentre io mi tengo Filippo Maria Ricci, perché adesso voglio parlare di Kakà. Allora, le notizie dell'ultima ora dicono che è ufficiale questa trattativa, caro il mio Filippo, tra il Milan e tra gli emissari di Kakà ed il Milan, per il ritorno in prestito di Kakà. È chiaro una cosa? È chiaro che Kakà è disperato. È disperato? Come molti altri suoi compagni, che ormai non sopportano più Mourinho, Kakà è quello che ha più problemi. L'altro giorno è finita addirittura in tribuna. Rispondiamo subito alla domanda che si faranno gli ascoltatori. Ah, ma è ancora buono, no? Io già lo vedo. È ancora sano? È ancora sano. Sano è sano. Buono per me è buono. Ho sentito che il Milan tratta David Beckham in confronto Kakà. No, questa il pallone d'oro. Guarda, a parer mio questa è una stupidaggine. Cioè, è uscito in questi giorni questo nome. Certo. Kakà è ancora per me un ottimo giocatore che se impegnato con regolarità può fare ancora molto bene. Non vincerà di nuovo il pallone d'oro, no, però è un giocatore sano e valido. Ed è assolutamente disperato, non sopporta più Mourinho. Il rapporto, il suo e quello di molti altri al Real Madrid, è assolutamente logoro. E lui ha appena avuto due giorni di vacanza, ha preso e è venuto a Milano ieri. Poi tra l'altro Robinho, tutto è nato con quella foto di Robinho postata su Twitter. A me mi è incuriosito molto il bicchiere di vino, era bello pieno, non era male il bicchiere di vino. Però e quindi vuol dire che c'è un interesse a Kakà su queste cose molto attento. Lui è su Twitter, ha qualcosa come 20 milioni di followers, però non posta niente. Se Robinho ha messo quella foto è perché c'è un interesse a far capire che le cose vanno in un certo modo. Vado via io, gli lascio la maglia. Oppure giochiamo in due. Esatto, il problema però fa ridere, cioè Kakà è stato pagato 67 milioni, Florentino Perez che ha una discreta faccia tosta ha detto che è stato ammortizzato, mi viene da ridere, non so come l'hanno ammortizzato, però... gli avranno dato altre mansioni. Sì, è certo, e ha uno stipendio appunto di questi 10 milioni netti, e adesso vediamo come si mette, perché è chiaro che Kakà... dovrà rinunciare a qualcosa, cosa che non ha voluto fare sinora, perché sennò Kakà se ne sarebbe già andato da tempo. Però una cosa, vediamo cosa ne pensa Mourinho, perché Mourinho non vuole, e questo è stato molto chiaro, che Kakà vada in un impossibile grande club europeo, perché se poco poco cagato a un livello decente, Mourinho fa una figuraccia. E per questo lo spingeva o verso il Brasile o verso gli Stati Uniti. Sì. E Kakà non ci ha voluto andare, giustamente, secondo me. E adesso è qua. Se va al Milan e passa i mesi, anche solo come li fece, no, il Ronaldo, l'ultimo Ronaldo, prima della pinguedine, o anche qualche sprazzo di Ronaldinho che abbiamo visto qua al Milan, e per Mourinho non è una buona... Sì, non è una buona cosa, certo. No, e quindi vediamo come si mette. Io per me ci sono ancora degli ostacoli economici molto molto molto grossi. Sì, sono quelli veri da superare, però è appunto interessante come sia ufficiale questo andirivieni dal portone di Via Turati, dove entrano e escono emissari di Kakà. Quindi è ufficiale questa trattativa per il ritorno. No, Kakà è disperato, te lo dico. Kakà, se disperato, lui dice, tu insisti. Vuole andare via domani. Però tu sai bene che il discorso economico nella famiglia non è banale. L'ingegner Bosco non molla un centesimo. Attenzione, c'è ancora altri due, oltre a questo c'è altri due anni di contratto. Il problema è che deve decidere se fare il pensionato di lusso o se fare ancora giocatore di pallone. Secondo me lui ha voglia di fare ancora giocatore di pallone perché è un ragazzo intelligente, c'è un mondiale e perché è motivato. Quindi da tutte queste frustrazioni, Filippo, ti ringrazio. A voi, ciao, ti abbraccio. Grazie Filippo, Maria Ricci dalla Spagna, perché adesso voglio cominciare a parlare con gli ascoltatori. Mentre Guardiola, allora, prima Rummenigge ha detto che è in America, non arriverà subito a Barcellona, però è già là ad imparare il tedesco. Este video è solo las 10 palabras más importantes de alemán para turistas. ¿Está bien? Entonces, por comenzar, tenemos perdón. ¿Por qué? Perdón, ¿dónde está? Perdón. ¿Eso? Perdón en alemán es Entschuldigung. Entschuldigung. Por favor es bitte, bitte, gracias, es danke, danke. Vabbè, qua potevamo arrivarci anche noi a questa prima lezione, eh? Leopoldo, Padova, 800 24 00 24, perché siete sempre tutti convocati qui su Radio 24 dalle 2 alle 3. Buongiorno. Buongiorno gente, buongiorno. No, io volevo parlare di pallacanestro. Benissimo. Considerato che da 7 anni vado a vedermi con gli amici la Coppa del Re ogni anno, immancabile appuntamento di febbraio. La Coppa del Re di basket? Sì. Francamente è uno spettacolo nello spettacolo. Io, diciamo, da uomo di pallacanestro, perché vivo di pallacanestro, vorrei consigliare a Petrucci, che sicuramente non avrà bisogno di miei consigli, ma c'è un invito, una cosa molto semplice, per migliorare la pallacanestro in Italia. Secondo me una ricetta molto semplice è questa: prendono tutti quanti, Lega, Federazione, tutti assieme, se ne vanno a fare un bel seminario di una decina di giorni con quelli della FEB, della Federazione Spagnola, con la FEB spagnola, imparano come si fa e poi tornano. Perché, e dopo, perché secondo lei non lo sanno. Si impara da loro, perché quando i palazzetti sono pieni per 4 giorni a 15.000 persone, c'è qualcosa che forse noi dobbiamo imparare da questa gente. C'è forse qualcosa che ci sfugge, ma secondo lei loro non lo sanno? Io ho avuto... C'è bisogno di seminario sul campo. Un parietto simpatico con il consigliere federale su questa roba qua, che mi chiama lo spagnolo per questo. Ma io francamente dico che loro lo sanno. C'è la volontà di farlo? Non lo so, perché quando, faccio un esempio, Armani si stancherà, spero lontano, ma si stancherà di questo giocatorino basket, la pallacanestro morirà a Milano, di conseguenza si affosserà un po' tutto quanto il nostro paese. Il fatto è che la Lega e la Federazione o vanno d'accordo o qui si muore. Su questo non c'è dubbio, ma se è anche vero che come pare viene vietata la trasferta dei tifosi Canturini a Milano in occasione delle final eight di Coppa Italia, è un'evirazione bella e buona di questo, anche del contesto e del contorno di questa formula, che secondo me è estremamente riuscita. Leopoldo, la ringrazio. Passo a Mario da Bologna prima della borsa. Mario. Salve, innanzitutto grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Allora, io volevo dire una cosa su Guardiola. In realtà avete già detto, da quando mi sono prenotato, avete detto praticamente tutto voi quello che avrei voluto dire, quindi diciamo che siamo anche d'accordo. Per quel che riguarda il discorso dei 4 milioni, io avrei addirittura evidenziato un po' di più, perché penso che siano in pochi, che rifiutano cifre del genere per scelte che effettivamente sono, penso, più di ma per scelte, sportive, credo, per scelte sportive, si sta parlando comunque di un mucchio di quattrini, eh. No, perché guadagnerà 7 milioni l'anno, quindi si sta parlando di una montagna di quattrini, è una scelta eminentemente sportiva, e io credo che Guardiola possa trovare al Bayern Monaco l'ambiente ideale per continuare il suo discorso mettendosi totalmente in gioco, perché adesso tutti diciamo è il più bravo del mondo, ora con una corazzata come il Bayern di Monaco è chiamato a dimostrarlo, e quindi questo mettersi in gioco è comunque l'elemento più interessante di questa vicenda. Tutti convocati. Siamo in attesa delle parole di Lance Armstrong, peraltro in buona parte anticipate questa notte, ore 3 italiane, al microfono di Oprah Winfrey. Intanto la macchina delle restituzioni da tempo si è rimessa in moto, si aggiunge un'altra richiesta, quella del Comitato Olimpico Internazionale, che appunto ha domandato all'ex campione americano di restituire la medaglia di bronzo vinta ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, lo scrivono i media americani. Ma torniamo al cacà che Filippo Maria Ricci definiva disperato al suo blitz milanese, e al fatto che questa trattativa è praticamente in corso in modo ufficiale per un ritorno in prestito di Riccardino in maglia rossonera. Curioso notare una cosa, un dettaglio. 4 anni fa, in questi giorni, il 19 di gennaio, Kakà si affacciò dopo quel Milan-Fiorentina in cui tutto lo stadio, fregandosene abbastanza della partita in corso, cantava "non si vende Kakà, non si vende Kakà". Ebbene, il 19 di marzo Kakà si affacciò al balconcino ed espose la maglietta numero 22, e Silvio Berlusconi disse: "Kakà non va al Manchester City". Ebbene, 4 anni dopo siamo al Kakà disperato che va a cena con Robinho e che chiede, prega quasi di tornare indietro. Sentiamolo. Possiamo chiederti perché sei qua? Oh, avevamo 2 giorni liberi, sono venuto a trovare un po' di amici. Oggi Galliani... paga il conto del mio fratello. Oggi Galliani oggi ha parlato di te. No, ma io sono venuto veramente per quello, solo per quello, per trovare un po' di amici qua a Milano. Ma c'è la possibilità di rivederti, se no, Riccardo? No, io adesso ti parlino le società, io non sono qua per questo. Ma tu sogni il ritorno, eh? È una cosa vera questa? Ah, io sono sempre molto grato al Milan, però c'ho un contratto con il Real Madrid. Ma il Real Madrid sembra che ti possa lasciare in prestito, Ricky. Non lo so, che loro si mettono d'accordo. Sì. Andrai a trovare il Milan. Non è una situazione piacevole. Scusa, posso farti una domanda? Ni per me, ni per la per ma tu saresti disposto a rinunciare a qualcosa per ritornare al Milan del futuro? Io ho già detto che sono disponibile a trovare una soluzione con il Real, se è bella per me è bella per loro. Ma Galliani Robinho, tu lo vorresti vedere con te al Milan? Non c'è perché giocassi con te. Ah, io lo amo, sì. Aspetta che possa venire a giocare con me qua. Ti manca Milano? Qualcosa? No, ragazzi, lasciate. Solo se ti manca Milano, quanto ti manca Milano? No, io ho vissuto dei bei momenti qua, quindi... sono contento di essere qui. Saluti i tifosi del Milan, almeno? Un saluto a tutti, grazie. Ciao. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Capito? Le parole di Kakà incalzatissimo dai giornalisti, ma ha detto cose importanti, che si parlino le società, io disponibile a mettermi d'accordo. Insomma, mi sono sembrate sorprendentemente chiare le parole di Riccardino. Fabio, Milano, Massimo, Venezia, Vito, provincia di Pistoia, 800 24 00 24, tutti convocati. Fabio. Sì, buongiorno signor Genta. Buongiorno. Senta, se io mi riallacciamo un po' al discorso di Kakà, proprio quello che si è sentito poco fa, cioè giocatori come Kakà o anche altri che se ne sono andati, che praticamente erano al top della carriera e che quindi potevano a ben donde avere pretendere certi ingaggi, quando poi vengono da alcune stagioni così, cioè si parla sempre del discorso, ma è un ingaggio proibitivo per il Milan o per altre squadre italiane, però uno che viene da stagioni un po' negative, sì, poi quando torna non può più pretendere lo stesso ingaggio che aveva quando se n'è andato via, che eri al top della carriera. Cioè questi discorsi, adesso si parla di Kakà, ma si potrebbe parlare anche di altri giocatori, come se io fossi un attore. No, questo è sicuro, però no, Fabio, l'altro. Mi perdoni, però Kakà ha un contratto con il Real Madrid, dunque se lui vuol rimanere a Madrid a prendere quei soldi non glieli negano. Se tu vuoi . Cambiare e giocare, dici tu, non puoi più, perché io Milan ti devo dare 10 milioni quando tu il Milan non può farlo, si tratta di trovare un accordo con il Real Madrid, con la solita formula del prestito, e con il Real Madrid che paga una parte dell'ingaggio che può essere ridotta, quanto si accorderanno, insomma si tratta di trovare un accordo economico, perché è evidente che il Milan non solo non vuole, ma non può pagare l'ingaggio di Kakà, l'ingaggio che Kakà prende il Real Madrid. Ma non sarebbe neanche giusto. No, non discuto. Il discorso è legale, è relativo ai contratti. Sì, sì, no, quello sì. No, ma dicevo che alcuni giocatori che dicono, ma io non voglio rinunciare a nulla, vabbè, ma tu... Se Kakà vuol fare ancora giocatore di calcio, deve cambiare aria e deve rinunciare a qualcosa, questo è indubbio. Verissimo. Ok? Perfetto. Massimo, Venezia. Sì, ciao. Prima delle dolenti note, una domanda velocissima. Michael Jordan per te era più un 2 o più un 3? Michael Jordan era più un 2 o più un 3? Michael Jordan era una meravigliosa guardia che poteva giocare anche alla piccola, ma all'occorrenza playmaker, ma all'occorrenza in qualunque altro ruolo. Perché? No, specie di scommessa con dei... Perché secondo te? Per me era un 3 che giocava 2, però... Vabbè. Era un 3 che giocava 2? Discorso tecnico questo, in quei Chicago Bulls ci poteva essere anche Tony Kukoc che giocava playmaker, quindi per esempio. Però mi sembrano abbastanza quisquiglie. Il senso è che Michael Jordan era un fuoriclasse assoluto, a prescindere dall'angolo che occupasse nel triangolo di Phil Jackson. Giocava come Magic, giocava quando serviva, giocava, partiva dalla posizione di guardia e facevi il triangolo, se vogliamo essere ancora più tecnici, ma poi non si capisce nessuno, partendo da quella posizione. Quisquiglie, poi? Le dolenti note, la Fiorentina, io non so se ho la forza di parlarne, non so, parlane tu, perché io sono avvilito, veramente sono distrutto da questo inizio di 2013, purtroppo sta succedendo quello che temevo. Cioè? Perché sono a pezzi fisicamente, si può giocare in quel modo in cui tutti ci dicevano che eravamo belli e bravi quando tutti sono molto vicini. Sì. Adesso sono lontanissimi, non riescono più a passarsi il pallone, i difensori lo passano ai nostri avversari. Pizzarro, possiamo dipendere solo da Pizzarro. Un momento di flessione era però plausibile, perché la Fiorentina è andata fortissimo, ha giocato anche un calcio meraviglioso per gran parte, praticamente per tutto il girone d'andata. Dispendioso certamente, però mi sembra che Montella abbia costruito. Era normale ed è normale un momento di flessione, soprattutto quando fai per così tanto tempo a meno della tua stella, anche del giocatore più prolifico in attacco che è Jovetic. Puoi rinunciarci una partita, due, un mese, ma poi finisci per pagarlo. Se a questo aggiungi la condizione fisica che è in calo, poi hai anche, quando succedono queste cose nel calcio, il vento contrario di qualche fischio arbitrale, perché direi che è fisiologico che sia così. Allora passi dei momenti di vuoto, ma mi sembra che nel complesso, leggendola così dall'alto, leggendola complessivamente, la Fiorentina stia facendo una grande stagione. A proposito, ieri sera telecronaca molto concitata per la RAI e per questa lite, questo bisticcio, questo battibecco che insomma tra Cuadrado e Dodò, non mi è sembrata una cosa di una violenza epocale, però qualcuno l'ha vista così. Tante parole vengono espresse, forum e quant'altro, e poi questo è uno spettacolo vergognoso, mai visto in vita mia una cosa del genere. I calciatori che dal campo devono scendere negli spogliatoi per evitare che si diano botte due atleti. Le scintille che ci sono state tra gli stessi giocatori all'uscita. Non chiamarle scintille, campo. Non chiamarle scintille, chiamiamole come è giusto che ci sia il termine, violenza pura. Sì, non hanno fatto una grande figura, ma insomma mi è sembrato un episodio censurabile senz'altro, ma che rientra nei canoni di un eccessivo agonismo. Non mi è sembrato una cosa, un match di box, insomma. Comunque passa la Roma, che è l'ultima qualificata per le semifinali, giocherà la solita sfida di Coppa Italia con l'Inter, che ormai è un refrain già visto e già noto da molto tempo. Ci fermiamo per il traffico, poi Vito, provincia di Pistoia, 800 24 00 24, numero verde. Continuate a seguirci anche su Twitter, su tutti i convocati. C'è Mauro che scrive: anche un Kakà al 30% sarebbe un top player. Beh, 30% mi sembra poco, bisogna alzare quella percentuale, ma tant'è. Tutti convocati. Dunque, a Wenger, allenatore dell'Arsenal, piace Cavani, ma costa un sacco di soldi, e questo già lo sapevamo. Dalla Spagna filtrano indiscrezioni secondo cui il Real Madrid non avrebbe intenzione di, cioè avrebbe intenzione di negare il prestito di Kakà, solito problema, quindi un ostacolo difficile da superare, ma il Milan non smette di provarci. Per ora da Real Madrid rispondono picche, ma è una trattativa che sta correndo sui binari tra Madrid e Milano. Vito, buongiorno. Buongiorno, dottor Genta. Salve, senti, dica. No, la prima cosa che volevo dire, volevo rassicurare quel ragazzo di Firenze. Sì. Cioè, se fosse la mia Inter che gioca come la Fiorentina, insomma, ieri sera veramente, devo dire, ha avuto anche Scaroni a tre pali, eccetera, eccetera. Non mi sembra, insomma, che abbia fatto una brutta partita. Beh, insomma, al di là di quello. Ah. Quello che volevo dire su Guardiola. Lei ha parlato, che ci mette la faccia, no? Ma in fin dei conti veniva da una delle squadre più forti del mondo negli ultimi 7-8 anni o 10, e va nella seconda top player che c'è ora come ora in Europa, non è che va a allenare la Lucchese. Sì, sì, no, ma io dico che è una scelta razionale, ma Vito, intendiamoci, da altre parti gli offrivano più quattrini, evidentemente. Vabbè, ha scelto lei ha ragione, cioè non ci sono, facciamo i conti, o andava a seppellirsi in Russia o da qualche altra parte come ha fatto qualcuno, e non è il caso di Guardiola, o andava in Inghilterra, e secondo me l'unica panchina che poteva interessare davvero a Guardiola è quella su cui siede ancora e starà ancora per un paio d'anni il monumento Ferguson, o andava in braccio agli sceicchi. Guardiola ha fatto una scelta che mi sorprende poco da questo punto di vista, perché mi sembra che il Bayern Monaco sia la realtà più vicina al calcio come lo intende lui, no? No, infatti io credo che poi avrà dei riflessi, anche se hanno già una buona cantera, come dicevate prima, con i vostri ospiti, però dei riflessi, cioè, da tutte le parti che è andato, i giovani li ha allevati bene, su questo veramente è una sicurezza, ecco. Beh, certo, ci sono discussioni, poi grazie a lei, e poi potrà disporre di top player, potrà disporre di tanti quattrini, come sentivamo prima, perché il Bayern Monaco ha tanti quattrini in cassa, può allestire subito una squadra competitiva per vincere la Champions. Insomma, ci sono moltissime ragioni che avvallano questa scelta. Io adesso però voglio un attimo cambiare argomento, perché sarà anche un weekend di grandi sport invernali, e c'è un evento che è unico in Italia in questa stagione, cioè l'unica prova di Coppa del Mondo di biathlon che si svolge in Italia, d'Anterselva per la precisione. L'anno scorso per il biathlon ci furono un mucchio di spettatori, 20.000 spettatori, e noi abbiamo in linea Luca Soffer, che porterà i nostri colori bronzo ai mondiali 2011. Ciao Lucas. Ciao a tutti. Come va? Come stai? Bene, bene. Adesso finalmente, dopo un po' di difficoltà all'inizio con il tiro della stagione, sono riuscito a riprendere un po' di fiducia nelle ultime due tappe, e sono contentissimo adesso di poter gareggiare qui a Anterselva con tutti i nostri tifosi italiani. Allora, gara di domani, presentamela tu. Allora, domani si svolgerà la sprint maschile, invece come adesso stanno gareggiando le nostre femmine. Loro fanno 7 km e mezzo e 2 tiri. Noi invece facciamo 10 km, anche noi 2 tiri, un tiro a terra e un tiro in piedi. Partiamo con un giro da 3-3, arriva il tiro a terra, un altro giro da 3-3, il tiro in piedi e il giro finale è che di nuovo 3-3 e poi si arriva all'arrivo. E per ogni colpo che viene sbagliato si deve fare un giro di penalità da 150 metri, che sono più o meno 23-25 secondi. E alla fine sarebbe meglio fare pochi errori per stare avanti, perché quanta selva conta veramente il tiro. Le tue prospettive e in generale le prospettive della squadra azzurra per la gara di domani quali sono? Domani io sicuramente cerco di partire sempre motivato e cerco anche di avere proprio pazienza al poligono, perché secondo me al momento è importantissimo stare tranquillo e sciolto e di cercare a fare quello che si fa durante gli allenamenti, perché alla fine la gara è sempre la stessa cosa come un allenamento, solo che abbiamo su un pettorale e c'è un po' di più pressione, soprattutto anche qua a Antaselva. Sì, anche perché ci sarà anche domani un sacco di gente. Speriamo proprio di sì. Adesso guardando la tele si vede che c'è abbastanza gente, però ce ne sta ancora molto di più, diciamo. Ce ne sta ancora molto di più, quindi tutti convocati per domani, Lucas? Io sono d'accordissimo. Senti, lo chiedo anche a te prima di salutarti en passant. Questo passaggio di Guardiola al Bar Monaco, non so quanto tu segua il calcio, non so quanto ti interessi, eccetera, però ne avrai sentito comunque parlare. Cosa ne pensi? Sinceramente ho sentito parlare poco adesso nell'ultimo tempo, perché eravamo sempre in giro e non si riesce tanto a seguire gli altri sport. Per quello non potrei neanche risponderti. Sì. Ma com'è la tua vita in questo periodo? Sempre in giro per dove? Al momento eravamo solo in giro. Siamo in giro la terza settimana adesso. Consecutiva? Esatto. Siamo partiti il 1 gennaio. Direttamente dopo Capodanno e siamo andati su Oberhof, che è vicino a Thüringen, e c'era la prima Coppa del Mondo di quest'anno là. Poi siamo andati direttamente a Ruppolin, che è vicino a Monaco, anche lì era la Coppa del Mondo la settimana scorsa, e direttamente da là siamo partiti per arrivare a Antaselva per fare la Coppa del Mondo in Italia. Vita da zingari, anche la vostra in questo periodo. Sì, esatto. Tra l'altro ci sono i mondiali o no? Sì, tra poco speriamo di farlo anche come lui, diciamo. E tu devi difendere un bronzo, hai un bronzo sul petto. Cerco ben di difenderlo, non è facile perché ho visto anche settimana scorsa che il livello si è alzato ancora di più, siamo arrivati 13 persone in 40 secondi all'arrivo in una gara a massa, e quello significa proprio che quest'anno il livello è talmente alto che ogni errore paga. Grazie Lucas, in bocca al lupo, ti seguiamo domani. Grazie. Un abbraccio, grazie a Lucas Hofer. Dunque domani in gara per questa unica prova della Coppa del Mondo di Biathlon in Italia ad Antaselva. Ascoltatori ancora convocati, Matteo Milano, buongiorno. Buongiorno gente. Buongiorno. Volevo riallacciarmi alla riflessione fatta prima su Kakà con Snyder e volevo sentire anche il tuo parere. Sì. Ma senti un po', secondo me, tu hai detto che, no, non tu, ma il radioascoltatore di prima ha detto che Kakà, se deve tornare vuol tornare a giocare a pallone, deve diminuirsi chiaramente lo stipendio se vuol tornare a giocare a pallone. Sì, l'ho detto anch'io, peraltro. Rimane a Madrid. Se no rimane a Madrid, prende i suoi soldi e va in tribuna. Esatto. Sì. Ma la stessa cosa vale anche per Snyder, perché, credimi, non mi sembra che l'Inter gli ha offerto bruschette a livello di soldi, ha offerto 5 milioni di euro coi bonus. Ed è 2 anni che io mi ricordo, anno dopo del triplete, Snyder si era inventato una malattia, anemia del sangue, che non so più che fine ha fatto quella malattia. Sì, quello era il momento. Ma mi sbaglio? No, Matteo, non ti sbagli. Quello era il momento di vendere Snyder. Tra l'altro, se ne era anche parlato, e quando se ne parla con così tanta insistenza, fatalmente qualcosa nel rapporto di fiducia tra il giocatore e il club si spezza. Lì si è spezzato il rapporto di fiducia tra l'Inter e Snyder, Snyder e l'Inter, poi arriva Benitez che non lo vede come trequartista, poi arriva Gasperini, insomma è sempre stato da lì in poi un giocatore un po' mal sopportato, quindi questa vicenda è andata per le lunghe. Resta il fatto che Sneijder ha un contratto con l'Inter, quindi vale per lui il discorso fatto per Kakà, quindi se non riescono a mettersi d'accordo, se non riescono ad accontentarlo, lui si siede dove deve sedersi e alla fine del mese incassa. No, caduto, però mi sembra che il discorso sia questo, stia in questi termini. È chiaro che vale anche per Sneijder il discorso fatto per Kakà, insomma, se uno vuol fare il giocatore di pallone, allora deve certamente guadagnare, realisticamente rimetterci meno possibile, però così a lungo fuori da un prato, così a lungo in tribuna, così a lungo in panchina, Kakà come Sneijder non ci può stare. Chiudiamo qui, grazie a Franco Piantanida, autore di questo programma, Fabio Cantatone in regia. Torniamo ovviamente domani dalle 2 alle 3 con tutti i convocati e poi vi ricordo anche l'appuntamento inaugurato sabato scorso con il magazine di tutti i convocati per il meglio e il peggio della settimana, sabato dalle 17 alle 18. Ciao a tutti. I sogni son desideri. Secondo Cenerentola, i sogni son desideri.